iniziano a scrivere lettere di ringraziamento, ne sono arrivate di tutti i tipi negli ultimi mesi, davvero. Cita una frase, una. Ma un paio mi hanno chiesto di poter scrivere il loro diploma sulla mostra, una invece di mettermi all'interno di una tesi universitaria. Qualche giorno fa una persona mi ha scritto una grandissima lettera dove mi ringrazia per aver rinnovato in lei la voglia di prendere rischi e rompere con le cose, non aver paura nel provare a, no, a attraversare le linee che a volte ci impongono all'interno delle meccaniche del mondo artistico. Quindi arrivano di tutti i tipi, la verità, sono fantastico. Esatto, fantastico. Queste linee invisibili che spesso ci autocostruiamo, su cui addirittura si autocostruiscono discorsi che poi proliferano, diventano segno e non ce ne liberiamo mai più. Quindi no, tutto questo non c'entra niente, questi sono gli appunti di prima, ma pensavo fosse un commento a quello che ho appena detto. No, esatto, infatti perché io, scusa, chiarisco per il pubblico non vedente, perché il pubblico non vedente, io stavo scrivendo sugli appunti della puntata prima, dell'unico foglio che ho. Ah, ok, davanti a me. Davanti a lui, della 369. Grande, esatto, no, della 369, qua c'erano delle cose sugli Iron Maiden. Ah, ok, quella, fantastico. Quella prima di noi che mi dirai più. Ah, ok, era Fujiko Rocks, che erano dal vivo anche loro, infatti siamo rimasti, allora ci siamo guardati e le salutiamo io e ringraffiamo, ci siamo guardati anche, come dire, che cavolo ci fate voi in radio? Esatto, cioè cosa ci fate? Wow, wow, wow, excitement unlocked. That rocked. Va bene? Benissimo, benissimo. Abbiamo ben Coccio. Due colori. Spastiamo. Aspetta che, ecco, c'è anche questo. Arte contemporanea. No, perché siccome abbiamo Aldo Giannotti in studio, infatti, allora Pasquini vuole fare esatto. tutti gli stacchetti possibili e immaginabili. La presenza di Aldo si fa prendere dall'esibizione. Mi lascio prendere dalle esibizioni. No, anche perché devo ancora preparare tutto. Per cui parlate voi due, fate raccontare voi. Che cos'è. Com'è sta mostra? Anzi, l'hai vista pure tu, fra l'altro, no? Sì, io la mostra l'ho vista, devo tornare a vederla perché non sono riuscita a interagire, l'ho attraversata un po' nella rapidità dell'estate. E, che dire, però è molto da fruire più che da raccontare. Il bello di quella mostra è che anch'io che l'ho creata, alla fine torno dentro quel museo lì, ogni volta è una mostra diversa, quindi divento io a mia volta spettatore ogni volta di una mostra diversa, perché un po' le guardi, un po' l'atteggiamento dei visitatori che a volte si lasciano andare e partecipano davvero al 100% all'interno delle istruzioni, quindi ogni volta che entro è un'esperienza diversa anche per me, che comunque l'ho ideata, coreografata. E l'altro giorno sono entrato per esempio dentro una mostra e c'erano 25 persone sdraiate in terra che guardavano il soffitto. Fantastico, ecco, questa è una cosa che anch'io voglio assolutamente fare e mi porterò dietro, adesso che mi hai dato lo spunto, anche un materassino, che mi sentivo appunto un po' stanca in questi giorni. Lì c'è l'aria condizionata, si sta freschi. Infatti, si sta freschi. Un'ottima idea, un ottimo suggerimento. Potevamo portare in studio una delle guardie, però... Questo sarebbe bellissimo, tra l'altro Ivan Carozzi, che è un giornalista che scrive per diversi giornali e pubblica diversi romanzi, anche lui ha fatto un articolo dove ha intervistato soltanto le guardie chiedendogli qual era il loro riscontro in questa esperienza. È stato un bel articolo, alla fine sì, sarebbe una bella idea anche. Allora, ma verrebbe subito la domanda scomoda, ma non abbiamo la stacchettino musicale per la domanda scomoda? Ce l'abbiamo, qual è? Prima devi fare lo stacchettino e poi per la domanda scomoda, adesso ce l'ho, arrivo. Datemi un secondo. Allora, intanto che lui cerca lo stacchetto che non gli ho dato, mi scrive la domanda scomoda. No, ti ridisinfetto la penna. No, la domanda se no non è più scomoda. Cos'è questa cosa? Invece ti ridisinfetto la penna come faccio con i miei studenti. E io risponderò alla domanda scomoda con un disegno che nessuno può vedere. Eventualmente puoi integrare quello che... Siamo nel verbo visivo. Eccola qua. Sono un po' i miei cavalli. No, ho sbagliato lo stacchettino, scusate, ho sbagliato lo stacchettino. Eccolo qua, infatti dicevo, perché non... Posso rispondere? Eccola. Ah, fantastico. Allora, ecco la domanda scomoda, ma rispetto a proprio al rapporto con chi lavora all'interno del museo, come ti è sembrata questa operazione all'interno della mostra di Achille Bonito Oliva delle divise progettate, disegnate da Gucci? Guarda, ne parlavo proprio oggi col direttore del Mambo, con Lorenzo Balbi. Io la trovo orribile. Lorenzo invece che è una persona più moderata e diplomatica. Esatto. Non ha usato lui a lui irritava il fatto che comunque in un momento di all'interno della pandemia quell'immagine con delle mascherine in qualche modo fa un po' il verso a quelli che sono gli operatori che lavorano e che stanno in prima linea e si occupano di questo tipo. A me, oltre a quello, dava noia il fatto di aver preso semplicemente delle realtà di vere persone, avergli costruito ad hoc una divisa che a me ricorda più quella dei manicomi degli anni 60, che non, però con le mascherine immagino, capisco la sua associazione, e poi di avergli dato un nome al francese dove semplicemente no, sì. si chiamano come l'hanno chiamati? Giardinieri del genere. Poi dopo. Ma io non l'ho mica capita questa operazione. Ma che cos'era esattamente? Io ho visto le foto e devo dire che così non ho ben capito perché tutta la mostra era una. È un omaggio a Achille Bonito Oliva. Achille Bonito Oliva, no? Sì. E dunque non so dirti le guardie, come me la immagino, no. Ma questa non è la realtà, quindi prendete come me la immagino che Gucci abbia prodotto e sponsorizzato un po' il progetto. Ah, certo. E a quel punto lì ha fatto il suo contributo, dove no, questa è una di voce di non so se Aldo Giannotti è uno dei pochi artisti che conosciamo che campa di sola arte, per cui lui queste dinamiche le conosce benissimo, capito? E nonostante questo non a caso abita in uno spazio autentico di parole, e non a caso abita a Vienna, perché abiti a Vienna, Aldo? Ti faccio la domanda io. Vienna perché, ma in realtà è il posto dove ho messo il freno a mano per non tornare in Italia. Io ho studiato 2 anni a Londra, poi uno a Monaco di Baviera, e cercavo un modo per non tornare. E a Vienna ci sono arrivato nel 2000, fino al 2000. Mi ci è voluto un pochino adattarmi, all'inizio non mi trovavo benissimo, però alla fine. Poi col tempo è diventato un po' perché io ho aperto uno spazio, non conoscendo nessuno, l'unico modo invece di andare porta a porta a presentarmi, sono Aldo, sono appena arrivato, non conosco la vostra linea, la vostra lingua, ho aperto uno spazio culturale che ho gestito per 7 anni, alla fine tutta la città, tutti gli artisti sono venuti lì, e quando ti sei creato la tua bolla, alla fine ho deciso di rimanere se lì. Se il mondo dell'arte non va Aldo, Aldo va al mondo dell'arte, no, è il contrario. Se Aldo non va al mondo dell'arte, il mondo dell'arte. No, quindi in realtà io ho fatto uguale, però non è venuto tutto il mondo dell'arte. Ma tu non eri a Vienna, però. Sì, no, effettivamente fare una cosa a Bologna non è la stessa cosa. Ah, parlavi di Bologna, scusa, sì, pensavo certo. Che ci avessi provato a New York, dico, ma magari no, a Zola Predosa lo volevo fare. Zola Predosa, sai. Detto questo, è ora di mettere una canzone, vi faccio sentire Dobro Sam, perché sono stato in Montenegro. E la musica era questa. Questa forse è la pubblicità che fa cominciare il pezzo, però c'è il pezzo. Arriva, eccolo qua. Poi lo seguo subito. Dobro sam, kad I'm fai così e poi noi siamo tornati siamo anche là, anche l'aereo è tornato, come siamo sentite, soltanto che come al solito il caldo dello studio non ci permette di chiudere le porte. No, e quindi no. Tutto entra. E comunque vi ho fatto sentire un po' di musica balcanica, perché che comunque non sembrava, io avevo un ricordo tutto diverso, cioè mi aspettavo una roba. Ah, certo. Sono passati quei 20 anni, adesso è diventata sai globalizzazione. Com'è? Esatto, proprio oggi che fra l'altro è l'anniversario di Genova 2001. Infatti. Incredibile, io sì. 20 anni fa tentavo di non farmi menare dalla polizia, non so voi. Sì, no, vabbè, in qualche modo ci stiamo provando ancora. Esatto. Ma no, diciamo così. Io mi sento sempre sul rischio. Infatti, venendo qua pensavo di chiedere ad Aldo, questa è una domanda, è un po' meno scomoda di quella di prima, ma perché siamo qui con Aldo Giannotti che non ha ancora disegnato niente. Ha fatto un rettangolino. Ricordiamolo un che se siete al Mambo, il Museo d'Arte Moderna di Bologna, e entrate, scoprirete appunto che state visitando la mostra Safe and Sound personale di Aldo Giannotti, che coinvolge un sacco di gente in realtà, perché quando entrate scoprirete che succedono un sacco di cose strane. L'artista e gli spettatori non sono lasciati soli in questa avventura. E fra l'altro mi diceva Aldo fuori programma che alcuni membri della alcuni, come si chiamano, le guardie della mostra stanno per essere esportate, giusto? Scusate. O non si deve dire? No, sì. Il progetto fa parte dell'Italian Council e prevede per contratto quello di fare un intervento dell'artista selezionato in una istituzione estera, in questo caso sarà lo Casa Center di Linz, e quindi il lavoro che porterò là sarà semplicemente sarà questo Museum Score, che questo libretto, questa coreografia, drammaturgia fatta e scritta apposta per le guardie museali, dove viene fatta tabula rasa di tutte le loro istruzioni normali, ne viene creata una nuova, e 4 di queste guardie le porterò a Linz per 2 giorni, praticamente rimpiazzeranno le guardie normali del museo e arriveranno con la loro know-how a ricreare queste situazioni al di fuori delle classiche strutture all'interno del museo. Una specie di questa cosa. No, ma è bellissima perché incide sui processi lavorativi reali. Questa è una ricaduta fantastica. Mi complimento e non ti posso stringere la mano perché ci sono i distanti, ma ti do il gomito. Così com'è bellissima la possibilità di vedere il Mambo di Bogotà live, mentre noi siamo al Mambo di Bologna e il Mambo di Bogotà live può vedere quello che succede nel Mambo di Bologna. Questa è un'altra cosa geniale che tu hai fatto all'interno di questa mostra, oltre al buco che di Bogotà, quello che non potevamo prevedere, che purtroppo dato le problematiche politiche che sono successe, che stanno succedendo ancora all'interno della città, quella finestra lì che dà sul Mambo di Bologna è diventata una vetrina per comunicare anche discontento politico, di creare che è stata risposta dalle guardie locali, dalle guardie del Mambo, con messaggi di partecipazione, messaggi di solidarietà. Esatto. È molto bella sta cosa, infatti. Fantastico. Sì, sono. Oltre al buco che ci permette di salire queste scale e arrivare da Morandi. Sì, oggi mi ha confermato Lorenzo, e quindi rendendolo pubblico sarà una specie di contratto, che l'opera che rimarrà alla fine, quando verrà levata tutta la scalinata e verrà rimessa a posto, lasceranno quella porta lì, la metteranno vetrata, in modo che dal secondo piano della collezione si può vedere sotto la sala delle ciminiere. Ma è fantastico. Rimarrà come intervento mio e che cito Aldo Rossi e via dicendo. Fantastico. Aldo Rossi è, tra l'altro, mi è nel cuore perché è una delle sue opere perché, nella città, perché è il nonno di Vasco Rossi che sarà la prossima personale al Mambo, no? No, vabbè, ecco qua siamo tutta una battuta. Sì, cioè, è una battuta. No, ho visto la faccia da panico di Aldo. Non so le cose a livello locale. No, sì, perché no, magari poteva anche credere, capito? Che no, esatto. Cioè, magari che... effettivamente ci potrebbe essere un'omonimia. No, io stavo parlando del... No, ma non posso dirlo perché sarebbe un fuori porta, fuori programma. Non parliamo della secchia rapita, comunque. Ah, giusto, no, assolutamente. No, ecco. Per cui, niente, chiudiamo la parentesi, però comunque Aldo Rossi è un architetto che è nel mio cuore, quindi documentatevi sulla sua produzione. No, niente, a questo punto... Non sappiamo cosa dire. Ci stava bene. Sì, una per qualsiasi situazione. Ci stava bene. A questo punto ci non sta. Sappiamo cosa dire. No? A questo punto vi facciamo vedere. Raccontaci, un disegno. Esatto. Oddio, beh, intanto il disegno intanto, è notevole. Immortalo questa cosa perché esatto, insomma. Il disegno è notevole. Devo dire che questo impreziosirà. Siccome notevolmente questo obsolete sheet, esatto, che usci, prima o poi uscirà. Che comincia Pasquini, prima lo snobbava, adesso che c'è il disegno di Aldo Giannotti è diventato improvvisamente importantissimo. Esatto, grazie a prioritario. Essendo una mia creazione, una mia idea, una mia proposta, sono contenta di avere qualche stakeholder qua, esatto, a sostenerla. Benissimo. No, invece io volevo chiedere a Aldo questo, perché ha pubblicato un libro nuovo e l'ha presentato a Massa Carrara. Massa Carrara, sì. Quella settimana scorsa. Ma perché tu sei di Massa Carrara? Sì, di Massa, se mi sentono in radio a Massa, scusate, mi uccidono, però sì, io ormai dico Massa Carrara, okay. Anche quando ordino i biglietti per tornare a casa dico un biglietto per Massa Carrara, loro mi guardano per Massa o per Carrara, perché è una storia di 500 anni, certo, la diatriba tra le nostre città. È come dire Modena Bologna. Io Pisa Livorno. Ah, appunto, siamo quindi a secchia rapita, siamo sempre lì. E dunque, a Massa, che cos'è sto libretto che hai pubblicato? Raccontaci. No, loro mi hanno invitato prima di tutto a parlare di una delle mie pubblicazioni, si chiama Viral ed è un libro che ho fatto quasi per noia durante la pandemia, sulla pandemia stessa, non pensando di farci poi un libro, come sono stato contattato ed è diventato alla fine un libro, e poi di parlare del mio lavoro. E negli ultimi tempi mi ritrovo spesso a dover parlare di quello che faccio. Io sono il primo ad annoiarmi, ormai entro in automatica, quindi per questa occasione ho creato un piccolo libricino che si chiama Una volta, in inglese doppia lingua, quindi Once, e Una volta come si descrive al titolo, quasi l'inizio di una fiaba, ma è anche il modo in cui noi nei bar, quel linguaggio narrativo da bar dove uno racconta le storie, le cose che ha passato. Io racconto un po' tutte le esperienze o lavori che ho fatto a livello artistico, però raccontati attraverso una piccola frase. Una volta ho appeso mia madre a testa in giù, una volta sono stato arrestato vestito da carabiniere in Germania, una volta, quindi sono tutti aneddoti, e poi dopo chiedo alla gente di farmi domande e attraverso questo metodo entro dentro il lavoro e la descrizione di cosa ho fatto, dove, perché. Ma davvero ti hanno arrestato vestito da carabiniere, sì, in Germania? Sì, ma sì. Fantastico, sì, sì. Perché ho visto le tue foto con chi eri con giro. Stefano Giuriati, che tra l'altro colgo l'occasione perché venerdì al Mambo lui viene da Monaco. Ah, fantastico. Lui di Monaco e farà un intervento. Che, sempre vestito da carabiniere, no? No, però dico solo due cose per non far spoilerare, però contiene pomodori e polizia. Bello, pomodori e polizia. E sarà una performance del 24 Mambo. È interattiva. Beh, allora dai, invitiamo tutti spoileriamo a partecipare. Quindi se dopo la motosega probabilmente rifiniremo sui giornali. Ok, meglio non venire vestiti di bianco, forse. No, in questa non situazione. Venite vestiti di bianco. Ok, magari in costume da bagno, sperando nel caldo. A che ora ci aspetti? Dalle 2 di pomeriggio fino alle 7. Hai capito? Il 24. Mentre il 23, già che ci siamo, ci sarà un live stream, un talk con Dan Perioschi, che è un artista. Ma il 24 non è sabato? Allora sì, il 24 è sabato, e venerdì invece, il venerdì allora c'è... No, perché arrivano tutti a vedere i pomodori e la polifia e poi invece e poi vedono... a me parlare con Dan Periosci. Esatto. Che tra l'altro, se non lo conoscete, Dan Periosci secondo me è uno degli artisti più bravi, interessanti, che tratta la grafica e la comunicazione visiva tramite grafica, e lui spesso ci associa, nonostante lui è maestro, io non sono nessuno, lui è già esposto al... lui è di Bucarest, Sibiu per essere più... E lui viene da tutta una tipologia di arte nella Jugoslavia dell'Est, lui però è finito a fare grandi lavori al MoMA, è un grandissimo artista, è davvero bravo, e io ho la fortuna di averlo come amico, quindi doveva venire, però pandemia non pandemia, testing non testing, alla fine abbiamo deciso di farlo a distanza, quindi faremo questa chiacchierata. Sarete all'interno della sala delle ciminiere. Facciamo la sala delle ciminiere. Sì. Lui mi ha dato dei disegni che io realizzerò suoi all'interno della sala delle ciminiere, e più ci sarà un live stream nei canali del Mambo. Un live stream extreme. Beh, fantastica questa idea di disegnare per interposta persona, di superarmi. Si potrebbero iniziare tutta una serie di mostre e di progetti a distanza, visto che non ci possiamo muovere. Esatto, commissionando un progetto di istruzioni disegnate. Credo che se ci sono due artisti che non hanno questa cosa, ma l'hai disegnato te, no, viene da un pensiero comunque galleristico, quello dell'originale, della certo. Storia. E noi due siamo probabilmente due artisti che non ce ne è mai fregato tanto di quello importante, il messaggio, la comunicazione. E specialmente in un periodo come quello della pandemia ci siamo dovuti tutti e due un po' improvvisare per dover fare lavori dove non potevamo raggiungere fisicamente, quindi vedendoci a vicenda a fare questo tipo di intervento ci siamo chiesti: ma perché non lo facciamo? Cioè, non potendo venire, te lo faccio io il disegno e te mi dici qual è. E questo è venerdì 23 alle? Alle 6. Alle 6 di pomeriggio, fantastico. Perfetto, benissimo. Allora adesso mi sa che il tempo impietoso qua sì, suggerisce, suggerisce uno stacchetto abbastanza veloce, che è eccolo qua. Che famo stasera? Hai capito, Pappi? Non ho capito niente, cosa mi devi dire? Niente, che abbiamo un angolo della menzione. Ah, cavoli, vero. Un angolo della menzione live. Un angolo della menzione live, aspetta che io invece non mi ero... Cos'è sta musichetta? Wow. Però, bello. Non male. I feel love, I feel Gabriele Tosi. Wow. Wow. E arrivo, adesso trovo anche l'angolo della menzione, che effettivamente abbiamo così tanti stacchi che non si trovano, no, quando infatti, uno ne ha bisogno. Devi metterli in ordine alfabetico e... Ma sono in ordine alfabetico. E ciò nonostante. L'angolo della menzione. Eccoci, abbiamo l'angolo della abbiamo menzione. L'angolo che della cosa menzione. Menzioniamo? Allora, oggi? menzioniamo, andiamo a chiamare per via telefonica Gabriele Tosi, perché Gabriele Tosi, che da anni collabora con Locale 2, ci racconterà di una delle mostre presenti in città, che si chiama Vasca Corta. Edoardo Ciaralli, Milena Rossignoli, Bianca Schroeder, Giulia Sofi, Moe Yoshida, Xin Han Yu. Li sto sballando tutte. No, Schroeder l'ha detto giusto. Forse no, Yoshida. Grazie. Sì, Yoshida. Sì, no, hai ragione. Yoshida. Vabbè, insomma, adesso li facciamo ripronunciare tutti a Gabriele Tosi, che lo vado a chiamare al telefono. Vediamo no, lo se. Lo sto chiamando io. Allora, lo stai chiamando tu? No, chiamalo tu allora. No, infatti. Allora, aspetta, che prima dobbiamo trovare il numero. Però mentre intanto tu lo chiami, volevo dire a tutti i nostri ascoltatori, che lo sapranno perché sono di Bologna, che la mostra è in via Petroni. E si dice via Petroni. Via Giuseppe Petroni, certo. Ecco, perché suonando, chi viene da fuori sede a volte la chiama via Petroni. Ah, no, e allora Petroni. Il bolognese certo. Sa che si dice via Petroni. Ha risposto. Chi è? Pronti? Chi è? Chi parla? È il popolo, Bride. Ah, ecco. Come stai, caro? Benissimo, voi? Grazie per il fill-up. Ti piace, hai visto? L'ho messa appositamente. Mi è arrivato tutto il vostro amore. Fantastico. Allora, cosa ci racconti di questa mostra? Innanzitutto, perché non è più a locale 2? Perché locale 2 non esiste più, giusto? Esatto, perché c'è questa nuova modalità itinerante. Raccontaci qualcosa della modalità itinerante. Abbiamo perso lo spazio storico, tra virgolette, di Piazza Gardino, dove abitavamo da 8 anni, per motivi vari e non importanti da dire, e quindi ci siamo messi un po' a scottare i divani altrui, come si suol dire. E, no, e l'aver perso lo spazio ci ha dato molta energia in realtà, quindi abbiamo fatto 3 progetti negli ultimi 6 mesi, cosa che non succedeva da anni con questa velocità, insomma. Ma voi come venite a sapere degli spazi disponibili? Cioè vi chiamano dicendo: oh ragazzi, c'è questa officina bicycle vuota, oppure: oh ragazzi, c'è questa casa in smantellamento. Loro c'hanno le buzz. Come funziona? Un po' le buzz. In questo caso la buzz era della mitica Valentina Daccardi, che salutiamo. Che salutiamo, che ha saputo di questo spazio e sapeva già di noi, e ha deciso di fare l'Alberto Castagna della situazione, diciamo. Ha creato amore. Perfetto. E quindi ci ritroviamo vasca corta. Ci vuoi ridire gli artisti? Perché io ho sbagliato tutte le pronunce, tranne una. Tranne Ciaralli. No, li ho ascoltati, li hai detti benissimo, e comunque meglio di come li direi io. Per cui ti sottrai a questo. Va bene, va bene. Edoardo Ciaralli, Milena Rossignoli, Bianca Schroeder, Giulia Soffi, Moe Yoshida e Zinaiu. Ah, hai sbagliato anche tu. Ci dice Aldo Giannotti, che è qui con noi in studio, che si dice Yoshida, quindi, e oltretutto l'ho sentita oggi al telefono, quindi, ecco. Se ci sta ascoltando, speriamo di no, mi sgriderà in cuor suo. Ma temo ci stia ascoltando, perché era al telefono con me 10 minuti fa. Perfetto, allora chiediamo scusa ufficialmente a Moe per il nostro provincialismo pronuncistico. No, purtroppo Moe mi deve sentire molto spesso, perché stiamo facendo una cosa assieme in Giappone e questa cosa mi fa un po' paura, devo dire. Esatto, ed è abituata al fatto che la chiamo in mille modi diversi. Ma raccontaci della mostra, cosa succede in questa mostra? Ed è aperta fino a solo a mercoledì, sbaglio? Giovedì. Ah, ok, abbiamo tempo di andarla a vedere. Allora è facile ricordarselo, perché è il 22 ed è in via Petroni 22. Ah, barra esatto. A. E noi siamo locale 2. Cioè, e voi siete locale 2. Un misticismo, capisci? Ti racconto di questa mostra: è un ex biciclettaio, una ciclofficina che è rimasta come probabilmente è stata per molti decenni, se non che svuotata dalla carica di biciclette che ne ho. Che non offuscava la visione. Si intitola Vasca Corta perché il titolo descrive il luogo, è appunto una vasca di 25 metri, tu immagini di entrare in una piscina dal basso e vedresti quel tipo di volume. È stata un'operazione lampo, nel senso che abbiamo conosciuto questo spazio 25 giorni fa, un mese fa circa, e abbiamo organizzato la mostra in tempi record, mostra che durerà poco anche per essere corta a sua volta, sostanzialmente. Abbiamo pensato a un concept, diciamo, anche se chiamarlo concept sembra volergli dare troppa importanza. C'era un po' un'idea di movimento posposto, questo spazio presto dovrà trasformarsi, noi siamo nomadi, ci stiamo trasformando, c'è un movimento che dovrà arrivare, qualcuno dovrà trasformarsi, ma tutte le opere lo esorcizzano a modo loro. Chi con l'ansia, chi con l'esercizio, chi con lo stretching, chi con una nuotata appunto in una vasca corta, e il focus visivo è un po' su questi movimenti e gli arti che li compiono, ecco. Io ho notato, Gabriele, non so se è una mia deformazione, diciamo da formazione biologica in origine, da anatomia comparata, cioè questo meticciamento tra umano, animale, anatomico, così, che mi ha fatto un po' pensare anche al momento, diciamo, ai vari spillover che ci stanno inseguendo. Però non so, è una mia fantasia o c'è questa cosa? No, è un immaginario di quelli che avevamo in testa, ovviamente anche per il luogo, la biomeccanica e la disciplina della bicicletta contemporanea, anche se siamo in un biciclettaio tutt'altro che contemporaneo nella concezione. E quindi sì, hai perfettamente ragione, il territorio dell'anatomia, che è un territorio classico dell'arte, come tutti sappiamo, in questo caso viene riletto attraverso delle periferiche, delle marginalità, verrebbe da dire. Non si vedono i corpi, ma si vedono degli arti che si stanno in qualche modo ibridando e anche slegando da un corpo unico e collettivo. Fantastico, noi intanto qui abbiamo Aldo Giannotti che sta commentando visivamente le tue parole e dopo ti manderemo naturalmente lo screenshot. Lavoro. Esatto. Bene, quindi allora vasca corta, mostra corta, intervista corta, noi ti salutiamo per coerenza. Volevo solo gli orari di apertura. Giusto, gli orari di apertura. Dalle 13 alle 20, tutti i giorni fino a giovedì. Siamo aperti dalle 13 alle 20 tutti i giorni fino a giovedì. E alle 17 facciamo anche delle visite guidate. Addirittura. Molto bene. Allora ci vediamo nella vasca corta. See you in the vasca. See you in the vasca. Grazie Gabriele. Ciao Gelli, bellissimi. Ciao. Io, voi ditevi due cose che io intanto scappo dalla regia. Ma dove rimane questo spazio? Allora, via Petroni è, tu sai dov'è Piazza Verdi, la famosa, mitica, famigerata Piazza Verdi, sì, che ospita il teatro comunale. Volgi le spalle al teatro comunale, di fronte a te troverai due strade, quella che si trova un pochino più a destra. Indovina chi mi ha consigliato questo pezzo? Fedra Boscaro. No. Incredibile ma vero, Jenny Owens. No, ma lei in persona, non ci posso credere. Lei in persona. Ma quindi sei come i gruppi che sei riuscito finalmente a entrare in contatto con la tua star. Sono riuscito a farli pronunciare il mio nome correttamente. È la sua cantante preferita. Chiama come la Giulia Poppi, sta qua, si chiama Poppi. Poppi! Poppi, il pezzo si chiama molto, Concrete, non molto, male. Molto Brighton Rock, devo dire. Molto Brighton Rock. Veramente, sì, bello. Finisce molto così. Bene. E così. Eravamo, ci stava, un pezzo. Ci stava un pezzo, sì, esatto. Ma non ho capito, lei ti ha consigliato questo, cioè spiegami un attimo meglio retroscena. Ah, che... Cioè, c'è tutto un Discord dietro, tu lo sai che cos'è Discord? No. Discord è tipo... è un sito dove si chatta, è un po' tipo una roba anni 90 dove tu metti le cose che ti piacciono, eccetera, eccetera, e c'è un canale apposito. Uno stanzone di esatto, di Jenny Onyang. Cioè c'è uno stanzone di disagiati fans di Jenny Onyang, tra cui lei, che ogni tanto oggi ha messo sto pezzo dicendo: sono giorni che non sto ascoltando nient'altro. E dunque anche tu non hai potuto esimerti dall'ascoltarlo per 4-5 volte di fila. Esattamente, fino a che non sono arrivati in radio l'ho potuto anche mettere in radio, così come si fa. Senti le cicale dietro di me, perché se abbasso il mio microfono non le sentite più. E invece se lo rialzo, cioè le cicale ce le ho io. Sono registrate. Sì, sono registrati. Questa invece è Vanessa May, perché oggi sono arrivati in ritardo. Poi c'era anche Fujiko Rox prima di noi, non sono riuscito a mettere la musica di sottofondo, ma abbiamo il CD di Vanessa May che suona i classici. Arte contemporanea. Ti rifaccio arte contemporanea. A richiesta. È bello, a richiesta, eccolo qui, guarda. Arte contemporanea. Questa è la hit, è il primo stacchetto? Questa è Nicola Bu. Quanti anni sono passati dall'inizio di Coxo? Bisogna chiedere a Fedra. Però Avevamo fatto un conto di quanti giorni. Ha 14 anni adesso, secondo me ne aveva tipo 4 quando ha detto arte contemporanea. Arte contemporanea per la prima volta. Esatto. Dovresti farglielo rifare adesso, vedere un po' come è cambiata l'intonazione. Esatto. Sì, fra l'altro adesso c'è un vocione spaventoso. Forte contemporaneo. Glielo devo rifare. Facciamolo così, per i momenti un pochino più down possiamo usare il secondo stacchetto. Esatto. Però c'ho anche questo, senti. No? Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Bene, Cesare Pietro Iusti è venuto a vedere la tua mostra, visto che lui era il primo, ti ha preceduto, l'art counselor che ti ha preceduto. Sai che non lo so, è una domanda che voglio fare a Lorenzo, ma spero e mi piacerebbe, se non l'ha fatto, gli scriverò personalmente, perché lui è uno dei miei artisti italiani preferiti. Quindi. Certo, perché comunque c'è una certa coerenza, affinità, senz'altro. Soprattutto nel buco. Esatto. Perché Cesare è stato il primo a fare il buco e tu l'hai allargato. Più grande. Adesso quando chiameranno... Ogni allievo deve superare. Esatto. Facendo un buco più grande. Esatto. E così. Anzi, salutiamo Cesare che... E intimiamogli di andare a vedere la mostra di Aldo, se ancora non l'ha fatto. Anche la mostra di Cesare Pietro Iusti è riuscita a creare delle bucature nel reale in modo imprevisto. Io mi sono ritrovata il biglietto che avevo, sai che lui faceva cofirmare questa serie di disegni per la mostra, me la sono ritrovata nel cassetto, quella proprio firmata da me insieme a Cesare, della mia classe, della classe in cui insegno, per pura coincidenza. Nel senso che un qualche studente della tua classe è andato a vedere la mostra e guarda caso ha pescato proprio quello che avevi fatto insieme a lui. Esatto. abbastanza inquietante, secondo me è un complotto, ma c'è dietro qualcosa, può essere. Okay. Ma ancora quando me la citano quella mostra lì e mi chiedono la mostra perfetta, tra le altre che spesso cito, quella lì di Cesare come retrospettiva, secondo me è quasi una retrospettiva perfetta. Cioè non è una retrospettiva soltanto d'arte, è una retrospettiva di vita, di percorso, secondo me è difficile fare una mostra che racconta tutto un percorso in una maniera più... Così retrospettivamente. Sono d'accordissimo. Sì. E chi l'ha mancata a un certo numero di cose può sempre comprare il catalogo, che è un piccolo capolavoro di editoria d'arte. Esatto. Un libro d'artista che appunto si chiama come la mostra, ma era qualcosa di diverso dalla mostra. Un certo numero di cose. E non mi ricordo chi è l'editore, ma lo troverete su www.coxospaziale. Chi? Nero? Penso di sì. Non lo so, può darsi. Sì, forse hai ragione tu. E tu, il tuo libro da chi? È di Mus. Mus. Mus Publishing, probabilmente. anche MP, non si capisce più come si vogliono far chiamare. Maria Pia. Anche MP come le forze speciali. Anche il tuo libro comunque è abbastanza indipendente rispetto alla mostra, o no? Sì, ma perché in realtà non è un libro in completa coincidenza con la mostra, ma un libro che esce con i finanziamenti all'interno della presentazione, all'interno dell'inaugurazione, però non volendo fare il libro all'apertura non potevamo avere, perché la mostra comunque è stata finalizzata un giorno prima dell'apertura, se non lo stesso giorno, e quindi abbiamo fatto un libro. Se non la domenica successiva, quando hanno tolto. Quando hanno tolto. Cosa c'era scritto? Cioè, tu avevi fatto un disegno molto grande con una sega elettrica, era un disegno di una sega elettrica con scritto: chiunque riesce a entrare senza farsi fermare dalla security con una motosega. Con una motosega si può tagliare via il lavoro e se lo può portare a casa. Che puntualmente è successo la domenica dopo l'inaugurazione, per cui. Ed è diventato virale, nel senso che come l'hanno pubblicato sul TG1 delle 8:30 su Rai 1, poi dopo hanno preso la notizia tutti gli altri, Repubblica. Dopodiché, ahimè, sei diventato il Banksy italiano. Esatto, il Banksy italiano che tra l'altro è stato anche beccato, perché il Banksy inglese non si sa chi è o quanti sono. Infatti, mentre quelli italiani hanno beccato subito. Hanno avuto questa gioia proprio viscerale nel creare uno scandalo dove lo scandalo non c'era e di chiamare furto dove non c'era nessun furto. E di creare articoli dove si parla di reo confessi, dove in realtà questi ragazzi sono dei ragazzi che hanno seguito un'istruzione che gli veniva data. Però vabbè, alla fine della giornata tutto ha fatto pubblicità. E poi la cosa che mi è piaciuta moltissimo, l'ultima volta che sono andato a vedere la mostra, una delle guardie si è infilata dentro al buco e stava lì appoggiata. Ma a volte li trovi seduti sulle sedie a guardare quel buco come se fosse uno schermo televisivo, che secondo me è bellissimo. E rispecchia tanto anche il modo in cui ci rapportiamo con i nuovi media. Per chi non è ancora andato a vedere questa mostra, esatto, cioè quello che vi dovrete aspettare è proprio l'inaspettato, cioè ovvero soprattutto vedere le guardie della mostra che non si comportano come tali, insomma. Cosa fanno? Beh, un po' quello che desiderano anche finalmente. In realtà fa parte di uno spartito, quindi io ho scritto un libro che è pubblicato e solo loro hanno una copia, ognuno di loro, dove ci sono 57 istruzioni comportamentali o di cose da dire, e loro seguono queste istruzioni. Poi ce ne sono alcune che sono molto aperte e loro le riempiono attraverso la loro creatività o il loro pensiero, quindi possono uscire, diciamo, un po' da possono declinare questo spartito a seconda del loro personale virtuosismo. Esatto. E ce n'è davvero di alcuni. Alcuni hanno l'hanno portato alla massima potenza. Ma il personale di guardiania del Mambo è sempre lo stesso? Scusa, una domanda così un po' tecnica che forse non interessa, però. Sono sempre gli stessi? Sono divisi in tre settori. Uno è quello proprio del Mambo, quindi uno staff fisso. Poi c'è uno staff che fa parte di come si chiamano in Italia? Cooperative. E poi c'è un'ultima che è un'associazione che dà possibilità a persone con difficoltà o con rientrare dentro il sistema, riorganizzarsi all'interno della società. E quindi noi possiamo andare anche a riorganizzarci mentalmente all'interno della mostra di Aldo Giannotti per cercare di assumere una prospettiva anche un pochino diversa sull'arte, sulle aspettative che ruotano attorno all'arte. Non mi ricordo se ho fatto questa domanda prima, che era l'approfondimento serio. L'ho già fatto? Hai già fatto? No, non hai fatto l'approfondimento. Non ho fatto l'approfondimento serio. Allora facciamo l'approfondimento serio, che mancano ancora 4 minuti. Infatti. Forse ce la possiamo fare. No, perché venendo in qua mi domandavo, ma cos'è che ci spinge noi artisti o gli artisti comunque a insistere in questa attività pseudodemenziale che a volte è anche indesiderata dal mondo, non so, sì. Cosa così, e a volte anche a metterci in qualche modo in situazioni che sfiorano il rischio, se non altro a volte il rischio del ridicolo, non lo so, cosa ci spinge? a essere artisti. Cosa ci spinge a incaponirci in questa follia? Non desiderato non lo direi mai, anzi ripiasserei il non desiderato col necessario. Una società che non ha sfogo, che non ha possibilità di alterare la realtà in cui viviamo, dove accettiamo tutto e lo prendiamo per conforme o per... è una società che non ha respiro, non ha creatività e non ha soprattutto, questo come dal mio punto di vista, non ha creazione dell'ispirazione, dell'immaginario, dell'andare oltre, di rompere le regole. Noi siamo sempre all'interno di una situazione che ci conferma dentro alcune regole, alcune disposizioni. Guarda, soltanto in questa stanza le guardo adesso, vedo non vedo vietato fumare, non abbandonare mascherine, copri microfoni, non spruzzate i microfoni sul microfono. E quella è la realtà che noi viviamo assecondando quelle che sono le restrizioni che ci mettono a nostro agio. Però il rompere, immaginarne delle nuove e cercare sempre di adoperarci nell'ispirare le altre persone a sentirsi liberi o creativi o a partecipare o a trovare metodologie diverse di creazione, quello è un po' alla base secondo me del perché facciamo sto lavoro, del perché cerchiamo di espandere i confini che ci vengono, no? Sempre messi ci vengono un po' consegnati, così come se fossero naturali, e invece esatto. Magari ci sono anche altre nature da esplorare. A me una cosa che è piaciuta moltissimo della tua mostra è questa proprio voglia di collaborazione estrema, no? Cioè il buco della colonna che invita i graffitari a venire lì a fare i disegni, che adesso, come hai visto, è piuttosto piena. E poi nello stesso tempo tu che inviti collaboratori per fare performance eccetera, che apri gli armadietti alla possibilità di essere inseriti come... No, ma infatti quella è un'esperienza, credo che una volta ne abbiamo parlato di questo, che come dicevo prima ho fatto 7 anni in cui io non facevo arte ma curavo e organizzavo mostre per gli altri. E questo deriva dal fatto del prima di essere un artista sono una persona che ama l'arte. E non è così importante poi se la faccio io, se la fai te, lo fai. L'importante è che sentirmi parte di questo, di essere circondato da gente che ha creatività, che crea delle cose che io non posso immaginare, e quando le immagino io le faccio io, quando invece vedo dei lavori che mi emozionano o mi colpiscono, mi fanno riflettere, fatti dagli altri, invito loro a farli. Non è più una questione di io cosa posso fare per essere al centro dell'universo, è come possiamo adoperarci per creare delle situazioni in cui davvero possiamo imparare uno dall'altro, farci emozionare uno dall'altro o farci criticare noi stessi uno dall'altro. E l'arte dovrebbe essere anche questo, il fatto di coinvolgerci e di essere, creare relazioni prima di tutto tra le persone in generale, ma poi anche tra gli artisti, no? Certo, non siamo in competizione tra di noi. Cioè non siamo come, cioè, una parte di noi sposa al 100% questa filosofia e... Santi nomi. Una parte di noi sposa questa cosa, ma una grande parte di noi. Dopo un altro pezzettino. Mi era venuto in mente questo. Diciamo, abbiamo raggiunto picchi troppo alti per la trasmissione, scusate. No, vabbè, ma qua dobbiamo abbassare un po' il livello. Fammi dire la mia didascalia di come fare gli artisti e vivere felici lo stesso. Vai, ti ascolto. Come no, si fa? È finita, no, così. Finita. Era la didascalia, finita. Finita. Era corta, non era una lunga didascalia. Ho capito. E dunque abbiamo finito la trasmissione. Che ore sono? Sono le 20:00 e 55, 56. Direi 57. Di sì. E dunque, Aldo, che dire? Qual è stato il momento più bello per te in questa trasmissione di oggi? In questa trasmissione di oggi Genio Nyans, te lo dico io, non c'è niente da fare, rimane comunque quello. Qualsiasi cosa puoi fare, qualunque sforzo viene, come dire, incenerito dalla presenza magnetica di Genio Nyans. Però è al secondo posto è avere Aldo Giannotti in studio finalmente, perché io sapevo che a lui piace venire in radio, me l'avevano detto, per cui sapendo che eri qua ti ho trascinato e sono contento di averlo fatto. Io ti ringrazio tantissimo, naturalmente, per tutti quegli svitati che ancora non hanno visto la tua mostra al Mambo, Quei folli, quei incomprensibili. Cioè, questa è una mostra da non perdere. Safe and Sound e sta su. Ma è una follia, è pazzia. Ed è aperta fino al 3 settembre, giusto? 5 settembre. Tra l'altro, 5 settembre con orari. Avanzati con performance di Pablo Chiarighin e concerto di Giovanni Truppi. Il 5 sarà la chiusura, la chiusura. Il festone, insomma, forse riusciamo a portare anche il tuo musicista preferito. Mi riscrivi il nome. Ah, ecco, fantastico. Beh, questo veramente è allora uno scoop qua. Vai, gli ascoltatori della trasmissione. Ci stiamo lavorando. Stiamo lavorando per avere Jenny Owen Youngs al Mambo che farà un live dal terrazzo di fronte. Esatto, stile Beatles. Come sempre, il party finale è sul balcone di Pasquini. Esatto. Molto bene, a questo punto posso solo lasciarci con le parole del nostro fantastico direttore che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Che però non parla. No, ho sbagliato completamente la sigla finale. Ragazzi, non lo sapevate, ma noi ascoltiamo lo zecchino d'oro. Lo zecchino d'oro però in giapponese. Senti qua. Non è male. Comunque io ero Chiara Pergola. Io ero Stefano W. Pasquini. E noi avevamo Aldo Giannotti qui con noi a Coxo Spaziale. Aspetta che vado a mettere le pubblicità delle 8. Comunque è stato bello.